Yeah. Cioè, io sono profondamente dispiaciuto perché siamo imboccati su The Boy with the Horn in His Side degli Smith. Che me la sarei sentita anche volentieri. Anche uno dei miei pezzi preferiti degli Smith. Quindi lunga vita a Morrissey. Benvenuti, è lunedì sera e come tutte le lunedì sera sulle frequenze di Controradio c'è questa trasmissione che si chiama Ragnar Paisa. Se volete telefonarci ed interagire con noi, è bello interagire, non so dove mi è venuto interagire, però se volete chiamarci e raccontarvi i vostri fatti, i fatti vostri, siamo qui con Massimo Cioletti, con Magalli. Chiamatelo 055 73 999 33. La nostra mail è info.ragnampaisa, scritto ragnampizza, @gmail.com e ragnampaisa.blogspot.com per andare a sentire le nostre trasmissioni scorse, per leggervi le playlist e quindi per ascoltare, riascoltare anche questa trasmissione domani. Con tanto di playlist che in notturna farò appena ritorno a casa prima di crollare definitivamente a letto. A Firenze è un freddo becco, quindi cercheremo di riscaldarvi con le nostre selezioni. A parte le solite bischerate, dobbiamo dire, Andrea, dobbiamo dire di un'uscita che sarà prossima. Sì, tra circa un mesetto su etichetta francese, si chiama Bedroom Research, uscirà questo disco mio e di Digi Galessio, Colossius and Digi, che si chiamerà Danza avec le loop. Che in italiano sarebbe Balla con loop. Chiaro. Trovate già lo snippet a giro, se andate sul SoundCloud, per chi conosce SoundCloud, cercate il SoundCloud di Bedroom Research, che è soundcloud.com/bedroom_research, e vi ascoltate lo snippet. La preview con la tutte, preview, diciamo, le robe, un aperitivo di quello che sarà poi il disco che uscirà tra un mesetto. Perfetto. Quante tracce ci dovrebbero essere dentro? Cinque tracce. Bene. E che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'altra volta non l'avevo detto, o meglio, forse l'avevo detto, però non me lo ricordo, che è uscito anche il mio secondo mix della serie dei podcast di Echo Unlimited. Quindi se cercate il sito di Echo Unlimited Italia, oppure andate direttamente sul SoundCloud di Echo Unlimited, magari comunque se avete Facebook potete cercare o agire sulla mia pagina, agire sulla pagina di del gruppo Ragnar Paisa o sulla pagina proprio del gruppo di Echo, e vi andate a sentire questo secondo mix. Il primo lo feci diversi mesi fa, dove c'era anche una mia intervista. A questo giro non c'è intervista, c'è solo il mix. Meglio, dai. Meglio, sì. anche perché insomma a distanza di mesi non è che era cambiato molto. Sì, potevo fare un copia in corso, essere ripetitivo. Sì, rischiavo di essere ripetitivo. Quindi diciamo anche del mix di Tommy su Soffritto. Ah, giusto, sì. Ecco, magari però quello dopo, quando viene lui, dico al microfono, lo ricorda lui. Perché... sì, facciamone parlare a lui, sì, direttamente. Sì, dai. Sì. Bene, quindi questi sono i 20 minuti di selezione di Tommy e ci risentiamo dopo. Five. Soldier.

Questo era il pezzo precursore di Sono un ragazzo fortunato e giovanotti. Questo si chiamava Fortunate Son, scritta però parecchio tempo prima. Bene, ben ritrovati. Io ho da annunciarvi un po' di situazione. A proposito di serate, allora, c'è in arrivo Rock B, ovvero DJ Sciocca, al Cargo, sabato 4 febbraio. E poi invece il 2, sempre di febbraio si parla, Foreign Beggars alla Flog insieme a Numa e Fuoco negli Occhi. Poi per tutti i downloadatori di Mix, è uscito fresco fresco sul sito di Soffrito, che a volte è capitato di menzionare qua dentro, il mio nuovo mix della saga Pupa T Plays Oldies, questo sarebbe dovuto essere il quarto volume da mettere sul nostro blog. Poi vabbè, c'è stato questo deal con Soffrito, questo pregio, quindi è diventato Pupati Plays All This for Soffrito, e lo trovate sul sito di Soffrito, che è soffrito.co.uk. c'è anche lo streaming, quindi ve lo potete sentire anche così, direttamente, senza stare a scaricarlo. Il numero di telefono, se qualcuno ci volesse chiamare finché siamo qua alle 22:30, 055 739 9933. Io volevo mandare un abbraccio, un abbraccio al Biga, sì, e a tutta la family. Buono, c'è Duccio in direct per i prossimi 20 minuti. Go, go, go, go, go, go, go. When everybody leaves you lonely and times are worse than sad and the world is falling on your head, just remember, for all you know, good or bad, come what may, you're gonna live tomorrow if you don't die today. When everybody leaves you lonely, times are worse than sad, and the world is falling on your head. Just remember what you know, good or bad, come on, babe. You're gonna live tomorrow if you don't die today. To fall in love, it takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. Now the fear got in me, it's gotten me deep. That's where it's gonna stay and never leave. Yeah. Saluti speciali a tu Rudy a Roma, Big Boss Man. should call me, but then after all we were lovers. I don't wait by the phone like I used to. I don't hope for kind words you might say. You don't prey on my mind like you used to, but you can still ruin my day. You can still ruin my day. Yeah. Tipo è salito sul bus che quasi non ci contiene, alla fermata su via Marmorata, piramide è quella che viene, mentre lei già al capolinea m'era dietro di due schiene, direzione non so bene, scende dove le conviene, quando i posti per sedere si liberano loro due svelti, li prendono svelti, si siedono vicini come se si sono scelti, lui le sorride, lei sulle prime direi che gli mostra i denti diversi, basta vederli già dalla faccia, dall'aria, dagli interessi, lei cerca nel vetro i suoi riflessi, poi lega i capelli e lui studia attentamente quei gesti a me. Lei ricorda Mego, l'ho già vista non so dove. Lui sembra Gabriele Salvatore. Fuori dal finestrino Roma bozza le sue storie, voci nella testa stentorie, la lotta eterna tra il silenzio e le parole, solo frazione e rumore a fare da colonne sonore. Al momento di frenare l'autista pronto, le fa scontrare come un autoscontro, e dalla colpa alle buche della città eterna, le falle della viabilità in tangenziale esterna. Lui la guarda negli occhi, da cui scippa i suoi pensieri nascosti come i soldi da un portafogli. Lei non sembra scomporsi, non è tipo da farsi spaccare i sogni e restare coi cocci. L'attrazione è quella di un magnete, ma in mezzo a loro la diffidenza è una parete. È l'attimo che vivono, si vede in molte chiese, abbiate fede, parlate e tacete, anche se non c'è un prete che intercede. Quindi vedo lui dire qualcosa di impreciso, di indeciso, io seguo il labiale ma indefinito. Le porte si aprono all'improvviso, oltre il vetro, prosegue il mio cammino, se volessi potrei farlo all'indietro. Conosco ogni singolo San Pietrino e racconto solo quello che vedo da vicino. Conosco ogni singolo San Pietrino, racconto solamente quello che vedo da vicino. Persone, tra le trame variegate nel reame dell'illusione, dove regina la falsità e dove alfiere è un qualsiasi guapo di cartone, dove sei già reato avere una tua opinione, figuriamoci ad averci una coscienza e una passione, dove se fai un peccato sei sicuro della remissione e di un futuro con una piazza in tuo nome. A volte sento che sto quasi per cedere, un tuffo nel grigio come un miglio di edere, ma questo che spera non mi possa succedere, dargli ragione è un lusso che non posso concedere. Questa è l'evoluzione del rumore, la definizione di un suono migliore, la confessione in la minore dell'autore, il reagente nel reattore, la delusione cocente che manderà certa gente al creatore. Lo straordinario il 32 dicembre, il 29 febbraio che può durare per sempre, la gloria che mi consegna la storia recente, dal chakra della mente che mi consacra tra le leggende. Ora ogni legame si spezza, sento la libertà che mi corteggia, dopo questi anni insieme in catene ma sulla breccia, mentre il filo della vita si intreccia e si spessisce la corteccia. Ogni schiaffo preso è come una carezza, ogni mia promessa pesa come una certezza. Non posso stare dietro alla feccia che spera che torni dietro, sto alla guida di chi si augura che cresca e metto la freccia. Lasciare ogni speranza se entrate ancora prima di finire, le cose sono cambiate e solo se siete disposti a farvi guidare fare. Potrete cambiare anche il vostro metro a pensare, e mi diranno che mo continua a non andare. Ma in questo mare sento il peso di affogare, e non c'è nessun modo di spiegare se lo cerchi. Per alcuni è un addio, ma il mio è un arrivederci. Ora che la manda in cielo le preghiere di una vita contro i giorni cattivi, e mandami i tuoi MC favoriti. L'ago della bilancia cui si sposta in base ai chili, e i pesi leggeri resteranno tra i miei incisivi. Drago, sputo meteoriti, muovo i fili. Lasciami cambiare i connotati a quelli che preferivi. Ma ti sei chiesto dove sto mirando? Ti è mai sfiorata alcun dubbio a riguardo? Rimanda argomenti di cui non parlo, forse perché sono troppo adulto per farlo. Se mi non mo, raccoglierò tra qualche anno. Problemi? No, di te nemmeno si ricorderà. No, in sala cala il sipario, il mio ascoltatore sale su un ale, lo porta a vedere il sole. E non si plana perché ogni mio deflettore si apre soltanto con certa stampa di settore. Qui nel mio mondo non esistono barriere, passiamo sere come leoni, giornate intere. Per domarci le criniere ci illudiamo di acquistare il potere con due negroni e di affogare il dispiacere. Ma anche no, domani devo alzarmi presto. Ma anche no, vorrei sparire proprio adesso. Adesso, sotto il peso del copriletto. Però, ehi, al capo, chi glielo dice che hai alzato il gomito e non ti sei più rialzato? Al tipo chi glielo dice che hai già il tipo, tipo che non è il tuo tipo ma è più di un amico. Adesso va così, non hai più un soldo e stasera non sai che metterti. Li hai devoluti per intero all'industria dei cosmetici. Sei vittima di te ma cerchi colpevoli. Hai due cicatrici sulle mani, vari amici universitari, più lavatrici in sospeso che esami. Ami fare foto soltanto ai panorami con la tua 5D. Ascoltavi la Pina ma prima Carry D. Hai scoperto i Justice e Etienne de Crécy. Odi gli ipocriti e ti tatui le rondini, e certi giorni vorresti sparire come Houdini. Cariche contrarie si avvicinano, ma io lascio stare certe formule, il tuo mondo è troppo piccolo. Mi sa che io non resisterò. Mi sa che io non resisterò. Ehi, al capo, chi glielo dice che hai alzato il gomito? Sei più rialzato al tipo chi glielo dice che hai già il tipo, tipo che non è il tuo tipo ma è più di un amico. Siamo testimoni del tempo che cambia e del mondo che si trasforma. Fantasmi riempiono la mia stanza stanotte. Questo come fosse un flusso di energia, scritto come un'elegia, rituale, quindi liturgia musicale. Con il cuore in una mano, un coltello in uno stivale, perché niente è tanto personale che non si può raccontare. 20 giorni in cardiologia, enigma, fantasmi nella trappola, chiamami Peter Wittmann. E sto pregando Dio perché per me la sua presenza è spirituale. Il resto è teologia e speculazione clericale. Io e la luna l'apogeo, non sono in pace neanche quando creo torneo. Bucano il mio zono, sono come il Freon. E dal liceo che la mia vita è un gineceo, io e le donne legati come Andromeda e Perseo. Spiego l'amore cieco e le cose che vedo, il resto va fuori campo. Sono José Canseco, il mio bene gigantesco è un mantra, me lo ripeto. Solo così posso donarlo, ogni altra piega è un ripiego. Cerco asilo nell'assillo, scrivo per ripartirlo. Ciao Gianluca, ci sei? Ti sento bassissimo. Mi senti bassissimo? Adesso aspetta, alzo. Adesso? Sì. Ok. Io mi sento. Perfetto. Okay. Insomma, dove sei? Sto cenando. al posto sotto casa, chiaramente. Esatto, sì. Mangi cosa? Cosa mangio? Mangio la carne con le patate. Ah, strano, eh? Allora, senti, molto brevemente, dici sì. Cos'è questo nuovo prodotto, questo nuovo mixtape e cosa... Okay. Cosa c'è in ponte durante l'anno, certo. E un po', insomma, di contatti, eccetera. Parto dicendo che non avevo capito del tutto, siccome voi siete dei miei amici, non avevo capito del tutto che avevamo iniziato, altrimenti avrei detto che stavo bevendo dello champagne millesimato e stavo mangiando qualcosa di un po' più altolocato. mi spiace. No, ma è giusto. No, i nostri ascoltatori apprezzeranno. Ok, bene. Allora, questo sostanzialmente album, street album, come lo vogliamo chiamare, in qualunque modo esso sia, sostanzialmente è un album, si chiama Qualcosa è cambiato, contiene un bel po' di cose, perché contiene un bel po' di lavoro che ho fatto negli ultimi mesi, che però è una parte di un lavoro più grosso, complesso, che poi finirà... per essere diviso tra questo Qualcosa è cambiato e 440 scritto nelle stelle, che è un disco che esce durante il 2012, non posso dire nulla sulle date. Okay. È un disco che sta andando molto bene, Qualcosa è cambiato, non posso essere più contento, ci stavo pensando oggi, sembra quasi la storia di una serie di Lost. Sembra quasi la storia di una serie televisiva dove tipo alla quinta stagione c'è il passaparola, è arrivato al culmine e tutti quanti dicono questa serie è il top, e allora tutti si vanno a scaricare anche le serie precedenti. Più o meno questa è la storia della mia carriera, più o meno. Bene, speriamo. Più o meno è andata così. Quindi boh, non lo so, comunque si trova nel disco, si trova un po' di tutto, secondo me. Comunque è un disco rap fondamentalmente, ma ci si può trovare un po' di tutto. Certo, ci sono. Comunque è una roba costante a quello che hai sempre fatto. Secondo me sì. Cioè, è un tassello in aggiunta, non altro mobile. Io che ti conosco ormai da svariati anni, cioè è comunque è una roba in linea con quello che hai sempre fatto. Cioè. Secondo me sì. Quindi io ti dico, ieri mi ero andato a ricercare, a risentire un po' anche le robe vecchie del disco vecchio, del primo mixtape, sì. E cioè comunque ci sono delle cose che io mi ascolto sempre e che non ci trovo. Sì, cioè sei indubbiamente molto migliorato, ma ti direi, magari non sono migliorate tanto la tua scrittura quanto magari le produzioni. Sulle quali canto. Ma le persone con cui ho lavorato sulle produzioni sono cresciuti. Alla fine a giro sempre le stesse, ma sono cresciuti insieme a me, quindi sai che alla fine abbiamo migliorato da sto punto di vista, perché siamo cresciuti tutti. Certo. Ma dico anche di età. Vabbè, abbiamo assorbito comunque un sacco di musica. Secondo me quello poi dopo ti potenzia, perché non puoi fare musica nuova senza assorbirne da altri, cioè si può dire che solo quello ti potenzia, cioè ascoltare musica varia. Assolutamente, è come pensare di crescere senza mangiare, cioè muori digiuno. Certo. E noi l'avevamo già detto nelle puntate scorse, comunque chi ancora non l'ha fatto può andare a vedere il video di Fantasmi, giusto, su YouTube. Ed è girato da Frank, giusto, il video? È girato da Frank Siciliano e Nicola Artico, che sono i Frame 24, che stanno facendo un grosso lavoro da quel punto di vista, e gli auguro le migliori fortune. Spero che questo video, che poi dopo sta avendo un giro maggiore rispetto al passato, gli dia anche la possibilità di lavorare in altri ambienti, perché sono ragazzi che hanno un senso del gusto veramente spiccato, anche perché oggi insomma è molto facile prendere una 5D, una Reflex e fare un video e poi dopo buttarlo su internet perché la qualità dell'immagine è ottima. Loro invece hanno un senso estetico molto serio. Tra l'altro, certo, mi spiace se sentite rumori, ma qui stanno guardando il Grande Fratello. Non li posso interrompere. È una cosa seria. È una cosa, credo che sia l'evento della settimana qui in Senti, per diciamo per chiudere, un po' di contatti, siti dove ordinare, dove reperire la roba, dove assolutamente scriverti. Allora, a parte che per chi ha voglia di supportare a prescindere, può comprare il disco Qualcosa è cambiato da iTunes, costa anche in meno rispetto alla copia fisica, ma quelle sono scelte. Poi invece chi, come credo molti degli ascoltatori del vostro programma, chi invece c'ha voglia poi dopo di sentire la carta, l'odore, averci la copia fisica sotto mano, può andare su macrobeats.net, su gamon.it, scritto con il GH, gamon.it, può comprarlo dai nostri siti, ma credo che a breve si troverà anche in tutti i negozi di dischi d'Italia, cioè credo che a breve il disco andrà anche in distribuzione, in quanto era partito per essere sostanzialmente un'edizione limitata, perché era un po' un lavoro di tributo ai fan fondamentalmente, e la cosa devo dire si è rivelata diversa, quindi credo che adesso sarà reperibile di qui a poco in tutti i negozi, anzi magari martellati i negozianti così se lo fanno arrivare. Bene, perfetto, quindi il sito Macrobeats, il sito suo, il sito tuo, sì. Twitter. Riverso, se volete dare il mio numero di telefono nel caso qualcuno ha qualche dubbio sul disco mi può chiamare. Ah, ok. Posso fare una domanda a Gammon? Vai libero. No, volevo sapere, ma c'è sempre la barba come sulla copertina del disco o te la sei tagliata? Ma una via di mezzo, via di mezzo, perché mia nonna non mi sopporta con la barba così lunga. Mi chiama ogni tanto e mi dice tagliala che sei brutto. Non te lo dice proprio così, perché io di nonna non posso. Io t'ho sentito parlare con la tua nonna. E quindi te non gli parli così e lei non ti parla così. No, invece delle volte mi parla così e mi dice che sono brutto con la barba e me la devo tagliare. Sì, no, ma te lo dice proprio con l'accento. Ah, ovviamente. Lo dovevo dire lo devi dire. Sì, a nonna sei brutto con la barba, tagliatela, non mi piace. Sì, mi dice mia nonna. Perfetto, bene, questa era Gammon, poi vi daremo sul blog tutti i riferimenti del caso. Te, Gianluca, rimani un attimo in linea. Sì, certo, rimango, grazie. Bubu con i suoi 20 minuti, Colossius, e ci vediamo lunedì prossimo, ciao. Perdere questa gara adesso ormai. La mia barca è passata al varo, impara ad orientarmi senza mappo, faro, più è raro chi non rema al contrario, scompaio come il tuo denaro quando il banco salta, in un mondo che esalta le capacità del varo, stai 3 metri sopra il cielo, sei paraletterario, proiettili d'argento nel velluto, mi autonomino sicario e mi sparo se stanotte muto il lupo mannaro, ossessione, distruzione, tu e il tuo nome, malinconia, luce che conduce fuori dalla galleria, messo a sedere sul bordo del cratere, la gente mi chiede storie vere, tu che ne puoi sapere, questa è solo una puntata di una serie animata, una stagione qui dura poche sere ed è archiviata, via lattea, la mia testa sbatte alla ricerca come l'uomo di latta senza che il cuore lo sappia, mai non posso cedere i miei pensieri adesso, lo we'll be right back.

wanna see you dip, dip, dip, and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your hip, hip, hip, and never ever stop, stop, stop. I wanna see you dip, dip, dip, and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your hip, hip, hip, and never ever stop, stop, stop. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when I see a pretty girl whining. I can even watch her butters girl grinding. Control the body with great timing. Ain't shy in the dark, they're shining. Dark something to me when I see them vibing. Drop it like a sun, they got my things rising. So frequent, there's no disguising. What do you expect? That ain't surprising. These girls got my blood pressure rising. The wiggling, the jiggling, I'm hiding. Shaking the back of it, so inviting. So natural, so exciting. Got to be honest, I wanna get right in. Better down with the man, them fighting. The point they wishing I might as well try to. Excuse me, I really gotta say something. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. Girlfriend, how you whine like that? Beautiful, you look so fine like that. Ain't seen it for a long time like that. You should go jail for a crime like that. Bust up the floor, you don't cut no slack. Dark suit queen, you're not at all laid back. Make up for all the other girls lack. Look so good, you got me going up. I can't even chat. Got my heartbeat going rat-a-tat-tat. So serious, she got me ill like that. Temperature rising, yo, I feel like that. Not for real, you could kill like that. Mirror your body with your skill like that. I can't get enough, though it's real like that. I'd love it if you flex with a deal like that. Cause I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. Okay, alright. Let's dance all night, alright, okay. Let's dance all day, okay, alright. Let's dance all night, alright, okay. Let's dance all day. Gosh, gosh, gosh, gosh. Hey! bang. La la la la la la la la. Bang bang bang bang. The best thing in life when you live with your family. The best thing in life is when you live with your family. Teach your family to be productive. The best thing in life.